c'erano, ma più o meno un'idea già ce l'avevano. Poi è successo che, frequentando la Puglia per andare a un festival che stava a Grottaglie, che si chiamava Fame, abbiamo iniziato a passare molte volte a Taranto perché c'è una coincidenza del treno là. Quindi stavamo delle ore là aspettando l'altro treno che ci portasse a Grottaglie. E camminando per l'isola, che sarebbe la città vecchia, che è quest'isola proprio fisicamente un'isola collegata alla terraferma da due ponti, che c'è il mare sia a destra che a sinistra, però questo mare, diciamo, non se ne può usufruire, per quello che tutti sappiamo. L'ILVA, il petrolio, il cemento e tutte quelle cose là. E niente, siamo innamorati di questo piccolo posto. Abbiamo contattato Angelo, che avevamo conosciuto anni prima, a una presentazione del nostro mensile che si chiama Napoli Monitor. Lui è un'associazione che sta nella torre dell'orologio, che a un certo punto compare nel video. Sta proprio appena si passa uno dei due ponti, c'è questa piazza, c'è la Torre dell'Orologio dove loro hanno un'associazione e fanno attività di promozione culturale, giri, organizzano tante cose. Quindi lui ovviamente è stato subito disponibile e ci ha ospitato tutte le volte che siamo andati a Taranto durante quest'anno. Più o meno ci siamo andati una volta al mese per 4-5 giorni, 6 giorni, dipendeva dalle altre cose. E succede sempre questa cosa che stando per strada incontri le persone, incontri soprattutto i ragazzini e gli spacciatori. Perché poi determinati luoghi purtroppo vengono vissuti, purtroppo diciamo, è così di fatto. O dai ragazzini che stanno liberi, e questo a noi ci può fare solo piacere, oppure da quelli che vivono la strada facendo affari, diciamo. Come un po' si vede dal video, l'isola è completamente abbandonata, proprio anche i palazzi sono fatiscenti. Poi c'è una parte che stanno cercando di mettere a posto e quindi il rischio poi è una trasformazione eccessiva, no? Ancora non si capisce bene che strada vuole prendere. Poi può succedere sia che diventa come il centro storico, che so, di Lecce, oppure ieri siamo stati a Bergamo Alta, no? Sì, che diventa esclusivamente per turisti e gli abitanti storici poi non vengono ovviamente presi in considerazione. Quindi, non so, il nostro modo di approcciarci a questa cosa è proprio andare là e vivere insieme a quelli che vivono questo posto. Perché poi certi quartieri, certi posti hanno questa fama che sono impenetrabili. E invece basta trovare una chiave in fin dei conti per arrivare fin dentro. Cioè, io incontro il ragazzino per strada, la ragazzina che dipinge insieme a noi, poi lei entra nel biliardino, si vede. Questo è per fare un esempio. Entri nel biliardino, quello è il biliardino, diciamo, della famiglia che c'ha la piazza di spaccio nell'isola. E quindi incontri anche gli spacciatori e incontri anche quei passanti, e incontri tutti, ma senza pregiudiziale. Quindi il punto è anche capire dove stai, con chi stai avendo a che fare, senza avere paura di avere a che fare con tante diversità che ti possono piacere o meno, però sono quelle che in questo momento storico vivono quel determinato posto.